Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Un giro tondo passa il bicchiere, un giro tondo dammi da bere, un giro tondo passa il bicchiere, dammi da bere per carità, un giro tondo passa il bicchiere, un giro tondo dammi da bere, un giro tondo passa il bicchiere, dammi da bere per carità, un giro tondo passa il bicchiere, un giro tondo dammi da bere, un giro tondo passa il bicchiere, dammi da bere per carità. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali. La trasmissione animalista, antispecista e vegan che si occupa di attualità, di cultura, di vita quotidiana, allargando lo sguardo e l'attenzione a tutto il mondo animale, umano e no. È la puntata numero 578 e parleremo di passi compiuti o progettati verso una transizione alimentare che porti a una svolta veg, dell'insistenza politica e scientifica sulla sperimentazione sugli animali, di allevamento, di inquinamento e dell'idea di introdurre la tutela degli animali non umani nella Costituzione. La colonna sonora di questa puntata, curata da Gabriele Palloni, è un omaggio alla memoria di Enriquez, al secolo Enrico Greppi, frontman della banda Bardot, scomparso recentemente. Speciale, la calma del surfista, con lei aspetti l'onda e parti alla conquista di una strada sempre diversa, di una vita che sembra persa, che si riprende in un colpo di reni o in una caduta senza problemi. E servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. E solo 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi di meno, chi vuole la calma serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Più volte nelle nostre puntate abbiamo discusso dell'opportunità, o meglio della necessità, di preferire un'alimentazione a base vegetale. È la nostra scelta di fondo, per una ragione etica e filosofica che diventa politica. In una fase storica che molti scienziati definiscono la sesta estinzione di massa, è necessario ripensare non solo il distruttivo modello di sviluppo nel quale siamo immersi, ma la posizione stessa dell'umanità rispetto agli altri esseri viventi. La pretesa di dominare il mondo e le vite altrui ci sta portando al disastro, quindi occorre immaginare un modo nuovo di interagire con il vivente. Il passaggio a un'alimentazione totalmente vegetale, una scelta possibile per la fisiologia umana, è la logica conseguenza di tale impostazione. Le difficoltà di transizione sono però enormi. Abitudini, tradizioni culturali, interessi economici si oppongono al cambiamento, come si vede bene nel caso di Lione. Nella città francese, il nuovo sindaco, il verde Grégory Doucet, ha deciso di eliminare la carne dalle mense scolastiche, attirandosi, fra molte critiche, anche quella tagliente del ministro dell'interno, Gérald Darmanin. La scelta di Doucet è stata bollata come ideologica e vessatoria. Il sindaco si è difeso con ragioni tecniche, spiegando che l'esclusione per tutti della carne consente di velocizzare le procedure di preparazione in cucina, eliminando anche la necessità di allestire vassoi ad hoc per gli scolari che per varie ragioni non mangiano carne. In sostanza, con il vassoio unico senza carne si evitano le file, contenendo il rischio di contagio fra i ragazzi. L'esclusione della carne, è bene precisarlo, non porterebbe nelle mense di Lione a pranzi vegetariani e tantomeno vegani, visto che il menù prevede comunque pesce, uova, formaggi. Ma tanto è bastato per scatenare polemiche accesissime. Etienne Blanc, esponente della destra, per esempio, ha detto che questo modo di imporre una scelta senza alternative possibili è inammissibile. E Beatrice de Montille, anche lei esponente della destra dei Républicains, ha aggiunto che nella città della gastronomia la maggioranza ecologista approfitta della crisi sanitaria per far passare misure ideologiche senza alcuna concertazione. Il ministro Darmanin, dal canto suo, in un tweet ha detto che oltre all'inaccettabile insulto agli agricoltori e ai macellai francesi, la politica moralista ed elitista dei Verdi esclude le classi popolari. Tanti bambini spesso mangiano la carne soltanto alla mensa. E il portavoce del governo, Gabriele Attal, ha insistito: sono sempre per lasciare la scelta agli allievi, non c'è bisogno di una scelta ideologica. Il ministro della Salute, Olivier Véran, ha poi improvvisato una lezione di nutrizionismo d'altri tempi. Nelle famiglie in stato di precarietà, ha detto, la carne e il pesce costano troppo e quando si decide di far rimanere a mangiare a scuola i bambini è anche per fargli avere l'occasione di mangiare proteine animali che sono importanti in una dieta. Ce n'è abbastanza per capire quanto sia impegnativa una svolta nell'alimentazione. Per quanto sia la pandemia sia il disastro climatico del pianeta siano legati allo sfruttamento animale, agli allevamenti intensivi e agli effetti a catena collegati. Il sindaco di Lione, oltretutto, non ha compiuto un gesto particolarmente coraggioso, non ha optato per menù totalmente vegetali e non si è richiamato agli appelli lanciati dagli scienziati che studiano il clima in favore di provvedimenti volti a un progressivo abbandono delle proteine di origine animale. Ci sarebbe da scoraggiarsi, ma da altre parti del mondo arrivano notizie che fanno intravedere invece la maturazione, in certi ambienti politici e imprenditoriali, di strategie aggiornate alle vere sfide del tempo presente e calibrate sul medio e lungo periodo. Ce ne parla Gianluca Masala a partire da un articolo del Time. C'erano state danze in riva al lago per brindare al sudore. C'era stato un profumo di menta, di ghiaccio e di liquore e poi Miriam delinquente non si serve da bere alla gente. Alchimie di sorrisi dritti al cuore e alla mente. A firma del giornalista Charlie Campbell, corrispondente da Shanghai del noto magazine newyorkese Time, è uscito il 22 gennaio scorso un interessante articolo dal titolo evocativo «Come la Cina potrebbe cambiare il mondo togliendo la carne dal menù». Dobbiamo quindi aspettarci che la Cina diventi il paese guida verso una auspicabile e considerevole riduzione del consumo di carne? Secondo Campbell, che ne analizza cause e effetti, questo sembra essere ineluttabile. Alla base di tutto ci sono le linee guida sul cambiamento delle abitudini alimentari, pubblicate dal governo cinese nel 2016, che, partendo dalla necessità di migliorare le condizioni di salute dei cittadini, affrontano l'argomento definendolo di sicurezza nazionale. La Cina si presenta oggi come il consumatore del 28% della carne mondiale e addirittura della metà della carne di maiale prodotta nel mondo. Questa dipendenza dai prodotti animali, anche alla luce di crisi sanitarie e degli effetti deleteri degli allevamenti intensivi, non è più sostenibile. Cavalcando l'onda di questo necessario cambiamento certificato e sostenuto dalla politica, gli imprenditori cinesi sono all'apice della cosiddetta rivoluzione delle proteine vegetali. Nei ristoranti l'offerta di plant-based food è massiccia. Alcuni imprenditori sono diventati in pochi anni leader nella produzione e nella distribuzione di questi cibi. Fra di loro spicca il gruppo Green Monday di David Yang, che ha come obiettivo dichiarato la costruzione di un ecosistema globale multiforme del cibo futuro che combatte il cambiamento climatico, l'insicurezza alimentare, la crisi della salute pubblica, la devastazione planetaria e la sofferenza degli animali. Del gruppo fanno parte i ristoranti Green Common, dove tutto il menù, compreso i piatti tradizionalmente a base di carne, sono ora a base di proteine vegetali. Inoltre, nel gruppo di Yang, è fondamentale il ruolo di OmniFood, produttore del cibo plant-based Omnipork, presente ora in molte catene di ristoranti, tra cui Taco Bell e Starbucks, dove viene utilizzato per preparare una grande varietà di piatti. Omnipork si presenta come cibo cruelty free, vegan, senza OGM e antibiotici, Buddhist and Muslim friendly. Fra i concorrenti di Yang, uno dei più importanti è Zhuru, la cui carne a base di proteine vegetali viene venduta nei supermercati ed è utilizzata in numerose mense scolastiche. Nel frattempo, nei ristoranti Dicos hanno sostituito l'uovo con un preparato a base di fagioli Mung prodotto dall'americana Just Eat, il cui manager Josh Tetrick prevede che entro il 2030 la maggior parte degli alimenti consumati nelle zone urbane della Cina non richiederà ingredienti animali. L'articolo di Time suggerisce che il sistema politico cinese è in grado di dettare le priorità commerciali e di sviluppo all'interno del paese. La promozione delle proteine vegetali passerebbe attraverso la loro introduzione in messe aziendali e scolastiche e porterebbe all'aumento della consapevolezza pubblica verso la necessità di un cambiamento di questo genere. L'influenza sulle scelte economiche di imprenditori in tutto il mondo verso una svolta vegetale sarebbero molto forti in vista di enormi contratti e sovvenzioni. L'impatto di questa inarrestabile tendenza potrà avere effetto, oltre che sull'economia cinese, anche sull'ambiente a livello globale. Oltre a ridurre le emissioni di carbonio, il consumo di acqua e il rischio che agenti patogeni zoonotici entrino nella popolazione umana, il passaggio alle proteine vegetali può salvaguardare le foreste dal disboscamento ai fini della coltivazione estensiva di mangime per animali da allevamento. In Cina, il solo dimezzare gli allevamenti porterebbe ad una riduzione di 1 miliardo di tonnellate nelle emissioni annue di CO2, un passaggio fondamentale per un paese che da peggiore inquinatore si impegna a diventare ad emissioni zero nel 2060. Per concludere, il giornalista Campbell ci ricorda che, come affermano molti esperti, non puoi fare nulla nel cambiamento climatico se non porti con te la Cina. Noi aggiungiamo che le istanze ambientaliste e molte dei risultati che l'uomo raggiungerà ai fini di uno sviluppo sostenibile per il pianeta sono strettamente legate al rispetto degli animali, ai loro diritti, alla concreta possibilità di farli uscire dalla macchina di morte dell'allevamento intensivo e del loro generalizzato sfruttamento. Notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. Seduto sull'asfalto che fuma, sembra un tempo da medioevo. Qualcuno dice che è un pazzo, un altro dice non è nessuno. E per la gente nervosa, in attesa del lieto fine, chi mangia solo terra ed acqua è un errore da digerire. È una notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. E lui sa di aver ragione, sa di essere felice, e sulla sua pelle nera scrive un nome di vernice. Alla gente distratta, in attesa del lieto fine, lui risponde con il vento: io sarò più contenta. Una notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. È una notte senza luna. Tra le tante emergenze ambientali del nostro tempo, l'inquinamento dovuto alla plastica è sicuramente fra le più stringenti. Tempo fa, un gruppo di ricercatori pubblicò su una rivista scientifica il risultato di una vasta indagine sul Mediterraneo, definito, con un'espressione tanto forte quanto chiara, una zuppa di plastica, per la quantità e la varietà dei residui che vi si trovano. Nuove conferme a tale definizione arrivano da una ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers of Marine Science. La ricerca si è concentrata sulle tartarughe marine arrivate al centro di recupero della Fondazione Cetacea di Riccione. Ebbene, tracce di plastica sono state trovate nelle feci di 42 di queste tartarughe. La scoperta è di un gruppo di studiosi dell'Università di Bologna. Gli esiti di questo studio, ha spiegato Elena Biagi, ricercatrice al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Alma Mater e prima autrice della ricerca, sono una dimostrazione della pervasività dell'inquinamento da plastiche nell'ecosistema di un mare estremamente sfruttato come l'Adriatico. I detriti plastici originati da questi rifiuti, continua Elena Biagi, entrano nella catena alimentare e possono essere ritrovati ad alte concentrazioni nelle feci di predatori apicali, come le tartarughe marine, appunto, con conseguenze negative per la loro salute, dovute anche a variazioni indotte nel loro microbiota intestinale. Secondo le stime, ogni anno più di 10 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, tanto che questi materiali costituiscono più dell'80% del totale delle sostanze inquinanti nei mari di tutto il mondo. Fra mammiferi marini, uccelli e tartarughe di mare sono circa 260 le specie che rischiano la vita a causa di questi rifiuti, ingerendoli o restando intrappolate. Inoltre, con il tempo la plastica si spezza in frammenti e filamenti, le microplastiche, che possono venire ingeriti da pesci e molluschi e risalire così la catena alimentare fino ad arrivare alle persone che se ne nutrono. Grido senza permesso, senza rumore, nessuno sentirà. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, soluzione a tutti i difetti miei, era solitudine ma sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. All'allegro bisogna stare, che il nostro piangere fa male. Dal Parlamento arriva una notizia che ci allontana da un futuro migliore e più giusto, quasi una rinuncia a far avanzare finalmente la scienza. La Camera dei Deputati ha rinviato di un altro anno l'entrata in vigore del divieto di eseguire su cavie test per droghe, alcol e altre sostanze d'abuso. La legge del 2014 prevedeva l'avvio del divieto nel 2017, ma se ne riparlerà a questo punto alla fine del 2021. Secondo la LAV, Lega Antivivisezione, il nuovo anno di proroga dovrebbe essere impiegato per investire su metodologie alternative di ricerca e rendere disponibili nuovi modelli di investigazione, a dimostrazione di un concreto impegno di quanto appena votato, senza cadere nell'ennesima e ridicola scusa che non sono disponibili ricerche alternative, quindi posticipiamo ancora, come sostenuto in passato. Plastica facciale, presentarsi al lavoro con tanto di dialogo brillante per celare un'esplosione ormonale. Vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere. Quando tutto tace, libertà che mi vuole, è la libertà che mi vuole. Dimenticato il sonno, il riposo, e sono ridotto a schiavo indecoroso, in un gioco di occhi, di forze, di coraggio, il gioco d'amore. Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, ogni settimana ci propone una ricetta rigorosamente vegan, pescando nella sua inesauribile fantasia culinaria. Ogni volta il piatto è collegato a uno dei temi affrontati nella puntata. Stavolta tocca alla lontana Cina. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Tutte le ricette di Gabriele si possono ritrovare sul nostro sito restiamoanimali.it seguendo il tag Il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Alzi la mano chi quando si parla di cucina cinese non pensa agli involtini primavera. Ne esistono decine di varianti. E io vi racconto una versione tutta vegetale. Nella ricetta anche il procedimento per fare l'involucro degli involtini, ma se non avete tempo potete acquistare le sfoglie già pronte. Gli ingredienti per 4 persone per gli involtini primavera sono: per le sfoglie 150 g di farina tipo 0, 80 ml di acqua e un pizzico di sale. Per il ripieno una carota, un mezzo cavolo cappuccio, una cipolla bianca, 50 g di germogli di soia, un cucchiaino di semi di sesamo, olio di semi di girasole, sale e pepe bianco. Infine, olio di arachide per friggere e salsa di soia. Per prima cosa preparate la pastella per realizzare le sfoglie. Lavorate la farina con acqua fino ad ottenere un impasto liscio che lascerete riposare immerso nell'acqua per qualche ora, meglio se tutta la notte. Nel frattempo preparate le verdure per il ripieno. Sbucciate e affettate la cipolla finemente. Pulite anche le carote e il cavolo e tagliate tutto a julienne. Fate saltare tutto in un wok o una padella con un cucchiaio di olio di semi di girasole. Aggiungete i germogli di soia e i semi di sesamo e lasciate cuocere. Le verdure dovranno risultare asciutte e croccanti. Aggiustate di sale e pepe bianco e togliete dal fuoco lasciando raffreddare. Successivamente recuperate la pasta dall'acqua e lavoratela un altro po' aggiungendo un pizzico di sale e, se necessario, poca acqua alla volta. Dovrete ottenere un impasto molto morbido. Adesso scaldate una piastra o una padella senza aggiungere olio. Prendete l'impasto con una mano e strofinatelo sulla padella dando una forma circolare. Vedrete che una sottile parte della pastella si attaccherà sul fondo e dopo pochi secondi sarà facile staccarla e rigirarla. Non lasciate colorire le sfoglie e toglietele dal fuoco. Procedete così fino a terminare la pastella. Farcite ogni sfoglia con le verdure saltate. Arrotolate spingendo i bordi laterali all'interno dell'involtino per sigillarlo. Friggete in immersione in abbondante olio di arachide ben caldo. Fate dorare su tutta la superficie, scolate su carta per frittura e servite caldi accompagnando con salsa di soia. Resto nudo e manifesto e faccio un gesto e manifesto. Oggi guardo il cielo e manifesto. E manifesto, oggi guardo il cielo. Oggi non lavoro, oggi non mi vesto. Resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto. Oggi guardo il cielo e manifesto. Thank you. Chiudiamo con un progetto che merita attenzione e che potrebbe accompagnare la svolta ecologista e animalista che la nostra redazione vorrebbe vedere realizzata in tempi brevi, in coerenza con l'urgenza drammatica dei problemi globali che abbiamo di fronte. È l'idea di inserire la tutela degli animali come esseri senzienti nella nostra Costituzione. L'ipotesi è contenuta in una lettera indirizzata al nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro per la Transizione Ecologica Cingolani, alla Presidenza e ai Capigruppo della Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato, una lettera firmata da un gruppo di associazioni, Animal Law Italia, OIPA Italia, LAV, EMPA, Save the Dogs and Other Animals, Essere Animali, Lega Ambiente, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Animal Equality, CVF Italia. Il tema, peraltro, è già all'ordine del giorno della Prima Commissione del Senato, chiamata a esaminare alcune proposte di legge costituzionale in materia di tutela ambientale. Il tema è tornato alla ribalta per le dichiarazioni del nuovo Premier Draghi, che ha definito addirittura ambientalista il suo governo. Dalle parole, naturalmente, bisognerà passare ai fatti, e aspetteremo questi. E andrà contestualmente chiarito cosa si intende a Palazzo Chigi per ambientalismo e per sviluppo sostenibile, la nuova parola d'ordine usata dai vecchi poteri e dalle solite industrie, e perciò da guardare, se non con sospetto, almeno senza ingenuità. Draghi ha ipotizzato di inserire lo sviluppo sostenibile nella Costituzione quale fondamentale strumento per preservare il pianeta per le future generazioni. E allora, nell'ottica di un ridisegnato rapporto dell'uomo con l'ambiente e l'ecosistema, le associazioni chiedono che si dia spazio alla richiesta di inserire nella Carta anche la tutela degli animali in quanto esseri senzienti. Fino a oggi, nella legislazione italiana, gli animali sono considerati ancora come res, oggetti, secondo l'antica concezione del diritto romano, quindi privi di quelle tutele specifiche che riguardano gli esseri senzienti, anche se alcuni progressi sul piano normativo sono stati fatti e per quanto la natura di esseri senzienti sia già presente nel Trattato di Lisbona dell'Unione Europea. Una definizione è rimasta finora priva di effetti tangibili per la condizione animale nel tempo presente. Auspichiamo che Governo e Parlamento, si legge nelle conclusioni della lettera preparata dalle associazioni, condividendo uno sguardo costantemente rivolto al futuro, sapranno cogliere l'opportunità storica che si profila per dare rilievo costituzionale a una tematica che interessa tutti gli italiani, che grazie alla stretta relazione con cani, gatti e altri animali da compagnia hanno profondamente rinnovato la loro relazione con gli animali. Ricordiamo che oltre 1 milione di cittadini, in prima persona, presta la propria attività di volontariato in questo ambito. Aggiungiamo che la relazione con gli animali deve necessariamente andare oltre il rapporto con cani, gatti e altri animali da compagnia, ma questa è una questione che affronteremo sul campo. La banda Bardo, Bardo, la banda Peugeot, Peugeot, la stella del cinema, tutta la banda innamorò. La banda Bardo, Bardo, la banda Peugeot, Peugeot, la stella del cinema, tutta la banda innamorò. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. Per questa settimana è tutto. A risentirci fra 7 giorni, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.